Ognuno di noi ha un sacco di cose. È ciò che il mondo decide che siamo, più tutto quello che noi decidiamo di essere. Siamo consumatori quando compriamo, siamo automobilisti mentre guidiamo. Siamo utenti per chi ci serve e allievi per chi ci insegna. Siamo figli, padri, sorelle e un sacco di altre cose. In tutto questo, l'unica cosa che possiamo fare è decidere. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:05 minuti, quasi 6 del venerdì 7 gennaio del 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Ci sono delle domande che ognuno di noi si fa quotidianamente, che sono domande che riguardano la vita di tutti i giorni, più o meno. Quanto pane comprare? A che ora passa l'autobus? Dove vado nel fine settimana? O qual è l'idraulico più economico in zona? E poi ci sono altre domande, domande che non ci facciamo sempre, che però rimangono sopite nella nostra testa, costantemente, e che vengono fuori in momenti di difficoltà. Domande che riguardano chi siamo noi, che hanno a che vedere con l'identità, la nostra e quella delle persone che ci stanno intorno. C'è una scienza apposta che studia questo aspetto del vivere umano, si chiama antropologia. Negli anni, come tutti, ho avuto un'infinità di esperienze antropologicamente interessanti, e quasi tutte sono avvenute nei momenti in cui ho scoperto cose che non mi aspettavo dalle persone che frequentavo. È stato quando ho scoperto che una persona che credevo essere mia amica non lo era, ad esempio. Oppure ho scoperto che un'altra che diceva di essere in un modo, in realtà era in un altro. Ho scoperto che chi dice di essere così, spesso è soprattutto in un'altra maniera. Ecco perché penso che in realtà sia sbagliato dire che una persona non era quella che sembrava, oppure si è rivelata essere una cosa diversa da quella che appariva. Secondo me è più giusto dire che ad un certo punto, semplicemente, una parte viene fuori più di un'altra. Che prima di quel momento noi vedevamo un lato di quella persona, e poi semplicemente ne abbiamo visto un altro. Che prima quello che ci mostrava era uno spigolo, e dopo quel momento lì, abbiamo visto anche gli altri, tutti gli altri angoli. Ma non per questo quello spigolo non esisteva, c'era, c'è ancora. È solo che prima quella era l'unica cosa che vedevamo. Ho sempre avuto la sensazione che il momento in cui scopriamo le parti nascoste delle persone che frequentiamo, quelle che loro non ci lasciano vedere o quelle che noi preferiamo non guardare, siano dei momenti rivelatori per due motivi. Il primo, quello che è più evidente, chiaramente, è proprio la scoperta di ciò che noi non conoscevamo di quella persona. Il secondo, invece, riguarda quello che noi non conoscevamo di noi. C'è sempre una parte nascosta che noi non frequentiamo. Perché è buia, perché è angusta, perché arrivarci è scomodo e spesso fa male. Ecco, allora di solito in quei posti ci arriviamo perché ci portano gli altri. Ci portano mostrandoci quella parte di loro che ci stupisce, quella parte che ci delude, che ci lascia senza fiato, senza parole. Il momento in cui scopriamo che quella persona non è quello che immaginavamo, o lo è solo in parte, sono attimi in cui scopriamo anche qualche cosa di noi. 800 24 0024 349 238 6666. Il primo è il telefono, il secondo è gli sms e il terzo... No, il terzo è la mail. Bravo, Franco, grande Piantanida. Io sono qui, @radio24.it. Sempre pronto fianco Piantanida, anche se si divide tra lo sport, il basket, lui è sempre sul pezzo. Io avevo un amico che non c'è più, non che è morto, semplicemente che non è più amico mio, che mi diceva proprio questa cosa qua. Guarda, quando mi capita di scoprire delle cose che non mi aspettavo dalle persone che conosco, e magari ci rimango male, magari mi dispiace, magari non me ne frega niente, però in quei momenti lì, quando scopro quelle cose, in realtà scopro anche qualcosa di me. Non so se questa cosa sia sempre vera, però in parte lo è. 800 24 00 24. Oggi si parla di questa roba qui per il semplice motivo che nella mia vita è entrato un baule. È entrato un baule pieno di roba, di roba che io non posso vedere. Ne parlavamo ieri a proposito della stanza di Barba Blu. Non la posso vedere perché chiaramente non è roba mia e mi è stato chiesto di non aprirlo. Ecco, io ho il panico che lì dentro ci siano delle cose, non che cambino la mia prospettiva sulla persona che possiede quel baule, che è la persona che mi sta di fianco, ma semplicemente che io scopra delle cose che sia meglio non scoprire, semplicemente perché sono cose che appartengono solo a quella persona e quella persona non me la vuole mostrare. Eppure ho anche la tentazione di farlo proprio per quel motivo lì, perché quel momento di solito è rivelatorio. Vi leggo un messaggio che mi ha mandato Alice, che è un'ascoltatrice che ascolta in podcast, mi diceva. A proposito, il podcast stanno arrivando, l'uomo con i tacchetti è tornato e quindi sta preparando il podcast che mancava di ieri. Insomma, Alice mi ha scritto proprio questa cosa qua. Mi parlava di una persona che non è esattamente quello che lei si aspettava che fosse, ma che alla fine l'ha aiutato a capire qualcosa di lei. Ero neolaureata, ero neosingle, stavo iniziando il mio primo lavoro. Ho rincontrato questa compagna di scuola con la quale si erano interrotti i rapporti che, a dire il vero, non erano mai stati granché. Cominciamo a frequentarci assiduamente, ogni giorno, ci sentivamo spessissimo al telefono, nel corso della giornata, pranzi una a casa dell'altra, cene una a casa dell'altra. Insomma, eravamo quasi in simbiosi. Avevo paura addirittura di perderla, ma lo vedevo come una cosa impossibile. Le volevo davvero un bene infinito. Avrei fatto di tutto per lei e l'ho fatto. Ok, e questa è l'amicizia perfetta. Lei è la mia amica e ho solo lei. Vado avanti. Ogni tanto si usciva con altre sue amiche o gruppi di suoi amici. Sempre così. Piano piano io ho cominciato a stringere amicizie anche con queste persone. Una sera chiedo ad un suo amico l'indirizzo email al pub, davanti a tutti. Ecco, quella fu la nostra prima litigata. Non mi sarei mai dovuto permettere di chiedere una cosa del genere alle sue spalle, senza chiederle prima il permesso, anche perché in passato loro due avevano avuto una storia. Poi sono successe un sacco di cose, tra cui che lei si è ammalata. E da lì lei ha cominciato ad accusarmi di tutto. Mi ha accusato di essersi innamorata del suo ex, di volerla tradire. Mi sono sentita riempire di parole orribili senza comprendere il motivo. Visto con gli occhi di oggi, continua e chiude Alice, sono passati tanti anni, in realtà mi sono accorta che io ero disperatamente alla ricerca di qualcuno che mi apprezzasse e ho preso la prima persona che aveva bisogno di qualcuno e che in quel caso aveva bisogno di me. L'ho capito solo adesso. 800240024 349-238-6666. Prima di cominciare però il racconto del baule e delle identità che sono in quel baule, oggi riflettevo su questo aspetto delle moltitudini di persone che siamo noi e delle moltitudini di persone che ci stanno intorno, e parlando con Tiziano Bonini ci è venuto in mente questo progetto che avevamo visto e di cui avevamo letto qualche anno fa, che è un progetto che è stato inventato e prodotto da questo fotografo che è molto famoso perché ha fatto dei libri di fotografia che si chiama La Terra vista dal cielo. L'avete presente? Probabilmente sono dei libroni cartonati a dimensioni cubitali che trovate in libreria per Mondadori, mi pare. Lui si chiama Jan Artus Bertrand. Lui praticamente ha fatto questi scatti della Terra vista dall'alto, appunto, che sono scatti meravigliosi, e ha avuto l'idea per questo progetto che si chiama 6 milioni di altri, perdonatemi, 6 miliardi di altri, 6 billion others in inglese, e anche se il progetto originale è in francese, in cui lui praticamente manda in giro una ventina di persone a intervistare migliaia e migliaia di individui in giro per il mondo. Il senso del progetto chiaramente ha a che fare con la quantità e non la qualità, nel senso che bisogna vederne tante di queste interviste che si trovano sul sito, che è www.6billionsadar.com o .org, comunque lo trovate facilmente. Nell'introduzione di questo progetto e di questo sito, Bertrand scrive questa cosa qua. Tutto iniziò con un elicottero in panne nel Mali, mentre aspettavo il pilota. Passai una intera giornata conversando con uno degli abitanti del villaggio. Mi parlò della sua vita quotidiana, delle sue speranze e delle sue paure. La sua unica ambizione era dare da mangiare ai figli. Più tardi, volando al sopra del nostro pianeta per realizzare la Terra vista dal cielo, mi chiesi più volte che cosa avrei potuto imparare dalle donne e dagli uomini che la popolavano. Sognai di comprenderne le parole, di percepire ciò che ci univa gli uni agli altri, perché da lassù, la Terra, sembrava un'immensa distesa a condividere. Non appena atterrai, affiorarono i problemi. Mi trovai la strada sbarrata da un'inflessibile burocrazia e da ostacoli posti dagli uomini, simboli della nostra difficoltà a vivere insieme. Insomma, fa un lungo excursus sulle difficoltà di vivere insieme e su come sia stato difficile per lui creare questo progetto. E poi chiude così. Sulla Terra siamo più di 6 miliardi e se non riusciamo a convivere non vi sarà alcuno sviluppo sostenibile. Ecco perché il progetto 6 Billion Sadar è così importante per me. Credo che in questo progetto, perché riguarda tutti noi e perché si spinge ad agire, sia importante non solo per me ma per tutti. Spero che ognuno di voi voglia tendere la mano, vivere questi incontri, ascoltare le altre persone e contribuire alla vita di 6 miliardi di altri sulla Terra. Andate a vederlo, ha a che fare con l'identità, soprattutto territoriale, ma non solo. Il sito si chiama 6 Billion Sadar, lo trovate facilmente su Google. 800240024 invece, perché oggi si parla di molteplicità di identità, ma soprattutto si parla di quel momento, e ve lo ricordate probabilmente molto bene, in cui avete capito che la persona che avevate vicino non era quella che pensavate che fosse. Provate a pensare a quante persone ci sono nel mondo. Ok, adesso pensate a quante persone sono quelle persone. Facciamo così, rendiamo più facile il compito. Pensate a quante persone siamo noi ogni giorno. Siamo una cosa al mattino, siamo un'altra al pomeriggio e un'altra ancora la sera. Per non parlare della notte, poi, nei nostri sogni. Sulla Terra ci vivono 6.697.354.239 persone, più una. Ognuno di noi. Sì, perché ogni volta che proviamo a pensare a quanti uomini e quante donne vivono su questo pianeta, ci dimentichiamo sempre di includere noi stessi nel conteggio. È strano, no? È come se non ce la facessimo proprio ad accettare di fare parte di una cosa più grande. È come se ci autoproclamassimo persone sole, uniche. Eppure no, tutti abbiamo bisogni identici. Tutti abbiamo bisogno di nutrirci, di idratarci, di riposare. Abbiamo bisogno di fare l'amore, di proteggerci dal freddo, di ripararci dal caldo, di ridere e di piangere. Va detto però che ognuno di noi lo fa a modo suo e con motivazioni che sono assolutamente differenti da quelle di tutti gli altri abitanti del pianeta. E quindi effettivamente sì, siamo unici. Se è vero che tutti nasciamo attraverso l'unione di due persone, è altrettanto vero però che ciascuno vive la propria infanzia in una precisa parte del mondo. Una parte che lo porta a conoscere e a frequentare determinate persone, determinati luoghi. Ciascuno poi sviluppa gusti propri, riconosce le sue inclinazioni e decide se seguirle oppure no. Ecco, tutto questo determina chi siamo. Costruisce cioè la nostra identità rispetto al resto del mondo. E nello stesso momento il resto del mondo riconosce la nostra identità e la definisce. Ecco, e il gioco, anche se complicato, sembrerebbe finire qui. E invece no. E invece no, perché ognuno di noi è quella cosa e molte altre. Ognuno di noi è ciò che il mondo decide che siamo, più tutto quello che noi decidiamo di essere. Siamo consumatori quando compriamo e automobilisti mentre guidiamo, siamo utenti per chi ci serve, allievi per chi ci insegna, siamo figli, padri, sorelle e un sacco di altre cose. Certo, in tutto questo noi possiamo decidere. Ad esempio, possiamo decidere se starcene da soli o in coppia, se diventare ingegneri o falegname, atei o credenti, se essere buoni mariti, lavoratori diligenti, cittadini onesti, buoni padri, oppure no. E poi siamo tutto quello che teniamo solo per noi. Le nostre schifezze, insomma. Quelle che non mostriamo a nessuno, nemmeno a chi ci vuole bene. Ma non solo, perché oltre a tutto ciò, siamo anche quello che nemmeno noi conosciamo. Siamo insomma un'infinità di cose in mezzo a un'infinità di persone. E oggi io, quando mi sono trovato solo in casa, davanti a un baule chiuso, ho capito che di tutte le parti che mi compongono, la parte debole è quella più forte. Insomma, il protagonista di questi primi giorni di gennaio è il baule. Una cassa che Natalia ha portato in casa e mi ha detto di non aprire per piacere. Ora, io lo so che non c'è nulla di più intrigante di dire di non fare qualcosa per invogliarti a farla, o di ammonire di non aprire quella porta per spingerti ad aprirla. E infatti quello che mi tormenta in questo momento non è quello. Non è una volontà infantile quella che mi spinge a voler aprire quel baule. È un'altra cosa. È il mistero della molteplicità. Prova a spiegarmi. quando avevo 20 anni, forse un po' di più, comunque una decina d'anni fa, ero fidanzato con una ragazza che viveva in una città del sud. Giocava a basket. Andavo a trovarla spesso e stavamo nella casa che la società le aveva procurato. Tutti i pomeriggi lei andava a fare allenamento e io rimanevo da solo in quell'appartamento mezzo vuoto, dove c'erano pochi vecchi mobili e le cose che lei si era portata per sentirsi un po' a casa durante tutta la stagione. In camera c'era sempre uno stendino pieno di canottiere, di felpe, di calze di spugna e altra roba sportiva ad asciugare. Ci rimanevo per un 3-4 ore in attesa che lei tornasse. Tra le cose che lei teneva lì c'erano alcuni libri. C'erano libri dell'università, altri per passare il tempo, qualche fumetto e poi dei diari. Sì, dei diari, per l'esattezza erano delle smemoranda, di quelle che tutti gli studenti avevano quell'epoca. Lei aveva continuato a comprarla anche dopo, anche finito il liceo, e ci si appuntava le cose, riflessioni, episodi di vita, foto, memo, insomma, un diario. C'erano quelli che andavano da 3 o 4 anni prima, fino a quell'anno, fino a quel momento. Mi sono accorto dei diari un giorno, mentre cercavo qualcosa da leggere, e ammetto che quella mi parse la migliore lettura possibile. Li lessi tutti, pagina dopo pagina, con la calma di chi sa di avere tutto il tempo a disposizione. E avevo ragione, fu decisamente una delle letture più interessanti della mia vita. Ma non è per quello che state pensando, non ci scoprii nulla di nascosto. Non ci trovai una seconda vita, non ci trovai che aveva un altro, non ci trovai che mi tradiva, che era una tossica, che si prostituiva. No, nulla di tutto questo. Anzi, per quanto riguarda la nostra relazione, se possibile quella lettura non fece altro che nutrire ulteriormente il mio ego. No, non ci fu nulla di eclatante o che già non conoscessi di lei che mi stupì. A sorprendermi furono le sfumature. Era il modo in cui lei parlava di cose piccole, che faceva passare per insignificanti. Erano i dettagli delle cose di cui si accorgeva, che si appuntava sul diario. Era il suo modo nascosto di vedere il mondo, che mi stupì. Non eravamo dei ragazzini, avevamo già più di 25 anni. Eppure era come se volesse mostrarmi solo una parte ben precisa di lei. Che non era una parte falsificata o costruita, era solo una parte. Quella che evidentemente le sembrava la migliore. Quella che lei preferiva, oppure quella che lei pensava che io preferissi. Ricordo che la lettura di quei diari non mi sorprese, visto che non ci trovai nulla di diverso da quello che sapevo. Però, sulla lunga distanza, quelle parti di fidanzata che io non conoscevo tornarono a galleggiare nella mia mente. Riaffiorarono molto tempo dopo, quando la storia era già terminata, e io ne stavo già iniziando un'altra. Accadde esattamente quando mi resi conto che io stavo facendo la stessa cosa mentre iniziavo a frequentare Giulia. Stavo mostrando una parte di me, quella che avevo deciso essere la migliore per lei. E ora invece c'era Natalie. E c'era questo baule. Siamo un sacco di cose che mostriamo e siamo tutto quello che teniamo solo per noi, le cose che non mostriamo a nessuno, nemmeno a chi ci vuole bene. Ma non solo, perché oltre a tutto ciò siamo anche quello che nemmeno noi conosciamo. Siamo insomma un'infinità di cose in mezzo a un'infinità di persone. E tra queste infinità di persone, al momento, c'era un baule, pieno della vita che non conoscevo di questa ragazza, questa che era appena entrata nella mia vita. Sono rimasto seduto di fronte a quel baule per circa un'ora. Non l'ho nemmeno toccato. Lo guardavo. Punto. Lo aveva spostato Natalie, quindi avevo solo potuto valutarne il peso così ad occhio. Non sembrava pesantissimo, quindi non doveva essere pieno di roba, o almeno non di roba pesante. Sapevo che non era chiusa a chiave, anche perché non c'era nessuna serratura. Questo significava che lei non l'aveva mai chiuso, nemmeno prima. Nemmeno per non farla aprire ai suoi genitori, ad esempio, o a Italo, o chiunque fosse entrato in casa sua. Forse allora non c'erano cose troppo importanti. O forse lei si fidava ciecamente delle persone che lasciava entrare in casa. Ecco che cos'era. Era un atto di fiducia. Era una frase, era per piacere non aprire questo baule. Punto. Anche se ci fossero dentro delle lenzuola o il tesoro di Alibaba, per piacere non aprirlo. E invece no, io ero convinto che lì dentro ci fossero tutte le Natalie che io non conoscevo. Ormai nella mia testa c'era questa convinzione e non se ne sarebbe andata tanto facilmente. E quando ormai mi ero convinto che quello fosse un pozzo buio pieno di segreti, ho sentito le chiavi nella toppa. Insomma, quel momento lì non è arrivato. Il momento in cui ho scoperto che la persona con cui sto, che mi sta vicino, è diversa da quella che io penso. Non è arrivato semplicemente perché non ho aperto quel baule, e forse perché in realtà non è così. A voi forse è capitato invece. 80024 0024 349 238 6666. Quel momento lì mi interessa oggi. Il momento in cui avete capito che c'era qualcosa che non avevate capito. Oppure qualcosa che non sapevate. Visto che è da ieri che me la meno con questa storia dell'identità, sul chi siamo e sulle definizioni anche, no? Ieri riflettevo sul fatto che quando uno ti chiede ma tu chi sei? Che è una domanda che in realtà non viene fatta spesso, è più che cosa fai, o quanti anni hai, o da dove vieni, o dove vivi. Però quando ci viene posta questa domanda, uno cosa risponderebbe? Alla domanda chi sei? Insomma, sono arrivate una cinquantina di risposte, non ve le leggo tutte, però credo che alcune valga la pena di elencarle. Ripeto, la domanda è: ma tu chi sei? E le risposte sono queste. Non sono nessuno, sono una ragazza, sono io. Scusa, ma chi sei tu? Sono una che a volte vorrebbe essere un'altra. Probabilmente sono quello che sei tu. Sono lui. Guarda, non ho soldi, scusa, se vuoi ti offro una cicca. Sono io, sono tutto e sono niente. Sono quello della moto. Bella domanda. Sono il lupo cattivo, sono un pirla, sono un ciclista, perché il ciclista non è quello che faccio, ma quello che sono. Sono un genio incompreso. Non lo so chi sono. Solitamente la risposta è la persona che stai cercando. Sono una persona che non è al posto giusto, ma che per fortuna ha accanto le persone giuste. Sto zitta. Non me lo sono mai chiesto e non me l'ha mai chiesto nessuno. Casomai la domanda era che cosa fai. Rispondo, a te che te ne fotti di chi sono. Sono colui che mi si crede, e questo è Pirandello. No grazie, sono a posto così, sono vigilanza, che sinceramente non so cosa voglia dire. Beh, risponderei, scopriamolo insieme, qui il tacchinaggio è sempre pronto. È quasi impossibile che questa domanda venga fatta. L'identificazione richiesta passa attraverso le cose che facciamo e non quello che siamo. E l'ultima risposta alla domanda chi sono o alla domanda chi sei è... domanda di riserva? 80024 0024 349 238 6666. Adesso sentiamo la borsa. Non ancora, ancora un attimo, poi c'è la borsa. Allora vi leggo un messaggio che è arrivato, visto che appunto la domanda era il momento in cui avete capito che c'era qualcosa di strano, qualcosa che non conoscevate nelle persone che stavate a fianco. Chiara da Trieste mi scrive: devo ancora scoprire perché la mia migliore amica mi ha messo alla porta, ma io non ho scoperto niente di nuovo su di me. E magari, Chiara, con il tempo. 80024 0024 349 238 6666. Io ho aperto il baule, il diario della mia compagna. L'ho aperto perché era l'unico modo per prendere una decisione importante. E alla fine l'ho presa. Poi invece Bruno mi scrive un messaggio che sinceramente non capisco. Non possiamo, Matteo, essere quello che vogliamo. Non tutti hanno le stesse possibilità. E poi solo il 20% delle persone vive in città. Ma che significa esattamente? Bruno, se voglio spiegarmelo, siamo qui. Tutti i giorni siamo confrontati con il baule del nostro partner, il cellulare. Sto cellulare, veramente. Chi non ha mai tentato di dare una sbercitina agli SMS? Io il cellulare di mia moglie non l'ho toccato mai, neanche quando suona. Facciamolo suonare, c'è la borsa e dopo io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Io sto qui. Dunque, nella foto di oggi non so esattamente dove siamo, so però che c'è un grande cielo azzurro e un edificio molto moderno che sembra una di quelle cose costruite da qualche architetto un po' archistar, tipo Calatrava, che è l'unico nome che conosco e quindi lo sparo. È un palazzo molto alto, sembra una torre, ha una parte tutta di vetrate e invece un'altra parte, le parti laterali più larghe sono di mattoni, di piastrelle bianche. Potrebbe essere veramente ovunque, potrebbe essere in Italia come potrebbe essere all'estero. È una bella giornata di sole e la foto è una bella foto. Sono Gianni Giannoccaro, ho 45 anni, da Venezia. All'aeroporto Marco Polo di Venezia c'è una nuova torre di controllo. Io sono architetto e ho seguito i lavori. Io sono qui. Ah, quindi, ma non ho capito, lui ha seguito i lavori o lui li ha disegnato? Lui ha seguito i lavori, quindi non è Calatrava, è semplicemente Gianni Giannoccaro. Grazie Gianni, andate a vedere le foto e continuate a mandarle, perché si continua a raccogliere le foto del vostro Io Sono Qui. Il profilo è Matteo Caccia, Io Sono Qui su Facebook, oppure potete mandarlo all'indirizzo che è sempre quello, che è Io Sono Qui @radio24.it. Adesso dirò una cosa che le persone per cui mandano i messaggi non lo sentiranno, ma è semplicemente che ci sono dei problemi sulle frequenze, ma che stiamo risolvendo, cioè non noi ovviamente, non io e neanche Roberto Scaltritti, però ci sono dei fior di tecnici di là che risolveranno tutti. Oggi si parla di identità, si parla di quella roba che riguarda la risposta che diamo quando ci chiedono chi siamo noi e soprattutto quando ci siamo accorti che le persone che noi pensavamo di conoscere non erano quelle persone lì e quindi aveva a che fare con la loro identità e con la nostra. Ieri mi sono messo a cercare un pochettino di incipit, soprattutto di grandi romanzi che cominciano esattamente in quel modo lì, cioè che cominciano con la presentazione dell'identità di un personaggio. Sono un uomo malato, sono un uomo cattivo, un uomo sgradevole. Credo di avere mal di fegato. Del resto non capisco un accidente del mio male e probabilmente non so di cosa soffro. Non mi curo e non mi sono mai curato, anche se rispetto la medicina e i dottori. Oltretutto sono anche estremamente superstizioso. No, signori, non voglio curarmi per cattiveria. Ecco, probabilmente voi questo non lo capirete. Beh, invece io lo capisco. Questo è l'incipit di Memorie dal sottosuolo di Dostoevskij, che è secondo me uno dei modi migliori per presentarsi, no? È dire che tipo di male sia, se lo sia oppure no. 800240024 349-238-6666. Oggi mi è arrivato un messaggio sempre su quel profilo Facebook che mi ha scritto Giorgio e riguardava proprio quel momento lì, quello in cui scopri che c'è qualcosa di strano e che c'è qualcosa che non torna nel calcolo che hai fatto delle persone che ti stanno vicino. Giorgio mi scrive: ho scoperto che i miei non erano tanto liberal quanto volessero far credere. Liberal nel senso che quando ti senti dire che un figlio va accettato a prescindere da come sia, beh, in realtà sono tutte palle. Pronto, Giorgio? Buongiorno. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, grazie. Giorgio, tu da dove mi chiami? Io chiamo da Milano, più o meno. Ok, quindi anche tu hai problemi con la ricezione, immagino, in questo momento. Sì, non ho sentito praticamente niente. Ok, perfetto. Senti, raccontami esattamente, quindi, chi sono queste persone che mi sembrano, abbiamo capito, sono i tuoi genitori. E quando è successo? E quando è stato quel momento? È stato, diciamo, due anni e mezzo, però il 29 settembre, tantissimi. E niente, ho detto i miei, quello che sono, cioè che sono gay e la mia vita è cambiata quel giorno, diciamo. È cambiata perché loro non se l'aspettavano, oppure... Cambiata perché loro non se l'aspettavano e poi, nonostante ci siano tutte le storie, il figlio va accettato così, poi quando arrivi al nocciolo della questione... finisce, cioè le parole rimangono parole, i fatti sono altri. Senti, com'è cambiata la tua vita, Giorgio? Com'è cambiata la mia vita? È cambiata che... cioè, nel senso, detta così, è cambiata che non si parla più di niente in casa, praticamente come se quando esco di casa sono un'altra persona. Ma scusami, tu vivi ancora con loro? Sì, perché studio all'università, sono ancora... giovane. Sei ancora, quanti anni hai? 21. Ah beh, sì, sei ufficialmente giovane, hai tutto il diritto di definirti giovane. Senti, quindi pensi di, come dire, di uscire di casa prima possibile, o pensi di affrontare di nuovo questo argomento, oppure hai deciso che loro sono le persone che non ti aspettavi che fossero? Sì, ho cioè, più che deciso che loro non sono le persone che mi aspettavo che fossero, me l'hanno dimostrato loro. Adesso, quando finirò l'università... Magari ci vuole, solo un po' di tempo, Giorgio. Sì, speriamo, anche se ormai... Ti faccio un grosso in bocca al lupo, Giorgio, grazie, grazie mille. Ciao, buona giornata. Grazie, ciao. Ciao. Mi chiamo Lester Burnham. Questo è il mio quartiere. Questa è la mia strada. Questa è la mia vita. Ho 42 anni. Fra meno di un anno sarò morto. Si parlava di grandi incipiti e di grandi presentazioni. Questo è l'inizio di American Beauty, che è forse uno dei più folguranti per quanto riguarda la dichiarazione della propria identità. Andiamo invece da Luisa a Roma, che ha avuto per una volta una rivelazione al contrario, cioè non dal lupo, non da Cenerentola, no, Cenerentola, da Cappuccetto Rosso a Lupo Cattivo, ma da Lupo Cattivo a Cappuccetto Rosso. Pronto, Luisa? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie, tu? Bene, bene, grazie. Hai il fiatone? Eh sì, stavo con la bambina in braccio, l'ho messa a terra. Come l'hai messa a terra? In che senso? No, stava in braccio, adesso l'ho messa a terra e sta trotterellando da sola. Ah, ok. Raccontami qual è stata la rivelazione di personalità che non ti aspettavi. Sì, questi amici che... Io quest'estate ho avuto un problema economico piuttosto grave, perché ho avuto un'ingiunzione di pagamento da parte di un'agenzia statale, per cui... Dovevo dare nell'arco di 60 giorni, devo pagare 10.000 euro. E niente, questi nostri amici una sera sono venuti a cena, sono degli amici diciamo di lunga data, che comunque noti insomma per la loro non tanto avarizia, però sono delle persone molto molto tirate, molto attente sempre alle spese, rigorosamente. Cioè sono di quelli che, quando si esce tra amici e non ci sono loro, è argomento di discussione il fatto che loro non spendano. No, non a questo punto, perché però che sono più discreti, però ecco, con molta discrezione. Loro sono persone abbastanza tirate, cioè vanno sempre al discount, vacanze sempre a casa della nonna, e fanno molta attenzione a quello che spendono, anche perché hanno realisticamente insomma hanno delle difficoltà a potersi permettere tante cose. Okay. E quindi niente, quando una di quelle sere d'estate vennero a cena a casa nostra, e noi così parlando, essendo molto amici, abbiamo tirato fuori questo problema, che era un grosso problema, perché ci sta veramente mettendo in crisi. Sì. E niente, loro, senza neanche consultarsi praticamente tra di loro, tra moglie e marito, ci hanno subito detto: va bene, ma noi domani facciamo un bonifico di 5.000 euro, se voi questo può risolvere tutta la situazione, è tutto ciò che noi possiamo avere come fido bancario, e ve lo diamo. Ah, quindi quello era di fatto il loro fido bancario? Era il loro fido, non avevano soldi, cioè loro avevano soltanto il loro stipendio, che peraltro era contato. Uh-huh. E ci hanno detto: se voi ci riuscite poi alla fine dell'estate a restituirci questi soldi, noi sapevamo di riuscirci, perché avremmo fatto comunque un altro finanziamento. Sì. E senti, Luisa, com'è andata a finire la storia dei soldi e l'amicizia? L'amicizia chiaramente si è amplificata ulteriormente, i soldi ci sono serviti, noi dopo 3 giorni siamo riusciti a fare il pagamento all'agenzia in questione, ma la cosa più bella è che loro praticamente a fine estate, noi gli abbiamo restituito i soldi ad agosto, e loro a fine estate, quindi a settembre, hanno ricevuto forse dalla stessa agenzia una specie di, non di acconto, si dice un conguaglio di spese, che avevano, di soldi che loro avevano dato in più nel corso degli ultimi 10 anni, di altrettanti soldi, quindi hanno dato in più 5.000 euro del tutto inaspettati. Quindi ok, è come una favola a lieto fine questo. Sì. Senti Luisa, ti ringrazio molto, ti faccio tornare alla tua bambina. Quanti anni ha? La piccola 2, il grande 5. E quando è successa questa cosa che mi raccontavi? È successa a luglio. Ah, ok, quindi già, c'erano già tutte e due i bambini. Sì, infatti altro motivo di preoccupazione era anche quello, insomma. Luisa, ti ringrazio molto, ti auguro buona giornata. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie. Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa, avendo pochi o punti di denaro in tasca e nulla di particolare che mi interessasse a terra, pensai di darmi alla navigazione, vedere la parte acquea del mondo. È un modo che io ho di cacciare la malinconia e di regolare la circolazione. Ogni volta che mi accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni volta che nell'anima mi scende come un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi accorgo di fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie di pompe funebri e di andare dietro a tutti i funerali che incontro, e specialmente Ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto principio morale per impedirmi di scendere in strada e gettare metodicamente per terra il cappello alla gente, allora decido che è tempo di mettermi in mare al più presto. Questo è Melville, è Moby Dick, sono le 16:42 e questa è Radio 24. E invece oggi mi è arrivato un messaggio di un'ascoltatrice che si chiama Ilaria, che mi scriveva: è andata che io mi sono fatta mille domande e lui ha continuato a vivere beato nella sua ignoranza. Stiamo parlando di persone che si rivelano non essere quello che si pensavano che fossero. E andiamo da Ilaria. Pronti, Ilaria? Pronto. Ciao, come stai? Ciao, bene, tu? Tutto a posto, tutto a posto. Okay. Anche tu non hai il fiatone, no, Ilaria? Non hai no, bambini no, da mettere giù? No, io sono in macchina. Perfetto, e non stai guidando in questo momento? No, no, no. Senti, raccontami com'è andata, anche mi sembra di capire si parli di ex fidanzati. Sì, io convivevo con questa persona e questa persona si è rivelata essere molto diversa da quello che era. Ma in che cosa esattamente, Ilaria, scusami? Ma in tutto, nel senso che ha finto una personalità che non era la sua e l'ha finta con tutti, amici, parenti, con tutti, con me, con se stesso e... Sento ancora, quindi... sento ancora un po' di livore, Ilaria, nella tua voce. No, no, no. Non è passato del tutto. No, no, è passatissima, no, no, anzi, sono felice così e... Fammi un esempio lampante di una roba che lui diceva di non essere, che invece era, o che era, invece non era. Beh, ad esempio, lui era una persona che condannava molto quelli che, non lo so, bevevano, facevano cose di questo tipo, fumavano canne, questo è... E quando invece poi è finita la storia, è stato uno dei primi a buttarsi a capofitto in queste cose. Tu hai capito, a quell'epoca tu hai capito qualcosa di te grazie a questa rivelazione oppure no? Sì, beh, all'epoca ero molto arrabbiata perché avevo perso anni della mia vita dietro una persona che aveva sempre finto, probabilmente anche finto di amarmi. Quanti però anni? Poi, tre anni. Però poi? Però poi no, ho capito di avere grandi risorse tra le quali la pazienza. Ecco. Le grandi risorse sono sempre la parte sconosciuta. Quanti anni hai adesso, Alessandra? Anche se 30. Non si chiede mai. 30. E hai uno straccio di fidanzato oppure sì, niente? Sì, sì, sì, sì. Ce l'hai? Sì. Ok, perfetto. Ilaria, ti ringrazio molto. Passa una buona Grazie. Giornata. Ciao, anche alla prossima. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del Carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio. Alla sera mi sento una straccia, per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia sa figlia con me. E questa lascerei andare per tutto il tempo, però chiaramente non è il caso di farlo. Questa è, pensando a una canzone che cominciava con una presentazione, la prima che ci è venuta in mente era questa qua. Io ringrazio tutti quelli che hanno telefonato e che purtroppo non faccio in tempo a prendere perché sono le 16:45 e bisogna lasciare la linea a Cappa e Drago. Io però vorrei chiudere con uno degli altri modi che abbiamo inaugurato, che stanno andando, anzi ringrazio tutti quelli che li mandano questi racconti, e stanno molto bene, è un modo per raccontarmi dove siete attraverso dei piccoli racconti. Mi è arrivato ieri pomeriggio, sempre Io sono qui, chiocciola Radio 24, è di Pierluigi e si intitola Due ragazzi del Sud. Avevamo superato la soglia dei 30 anni e non avevamo niente. Così si potevano riassumere le nostre vite, quella mia e di Sandro. Due ragazzi del Sud, come amavamo definirci. Due ragazzi del sud che non si rassegnavano all'idea di abbandonare la nostra terra per realizzarsi e sentirsi qualcuno. Avevamo l'età per sentirci adulti, un lavoro, una ragazza da amare, sposarci e fare dei figli, e una cerchia stretta di amici con i quali trovarsi al sabato sera, raccontarsi e condividere le memorabili vicende di una vita normale. Ecco la ricetta ideale. Ma tutto questo non sembrava tagliato per noi. Passavamo intere giornate dentro la macchina di Sandro, una Fiat Punto di colore arancione metallizzato. Sandro aveva scelto questo colore per sentirsi eccentrico. Un modo stupido per sentirsi al centro dell'attenzione, un tentativo per darsi coraggio da solo e magari attrarre l'attenzione di qualche ragazza, diceva lui. Quella macchina era il nostro guscio protettivo. Con i nostri discorsi tentavamo di infonderci fiducia l'un l'altro per poi affrontare il mondo esterno, perché il nostro unico obiettivo era quello di sentirci tremendamente normali agli occhi degli altri ragazzi della nostra età. Lui è Pierluigi e il racconto si chiama Due ragazzi del Sud. Io lo ringrazio, ringrazio quelli che continuano a scrivere. Io sono qui, @radio24.it. Ringrazio però soprattutto Franco Piantanida, Roberto Scaltritti e Tiziano Bonini, che sono di là in regia a fare questo programma. Domani è sabato, poi dopodomani è domenica e lunedì io sono qui.